Le ragioni sono esposte in una lettera aperta, sottoscritta da circa 4.500, forse anche più, magistrati. Ieri l'Associazione Magistrati ha consegnato al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, e si possono sostanzialmente riassumere, ma con l'approssimazione che una sintesi affrettata comporta, in una preoccupazione forte dei magistrati di vedere ribaltata e chiuso un ciclo che è durato oltre 50 anni, che ha visto la magistratura conquistare posizioni di indipendenza e che adesso si cerca di conculcare in qualche modo. Le aule sono tutte chiuse, devo dire che c'è in concomitanza anche l'astensione degli avvocati, ma l'adesione, i dati che sono pervenuti alla Presidenza del Tribunale e alla Corte d'Appello e che sono in corso di arrivo, danno un'adesione massiccia dei magistrati alla loro astensione. Quindi l'adesione è totale, anche se ci si rende conto che si arriva sul filo di lana. In ogni caso, se questa legge fosse approvata, si chiude un ciclo, la magistratura dovrà riconquistarsi e riaffermare di nuovo, come ha fatto nella sua storia, e riconquistarsi i principi, spazi di indipendenza. Noi abbiamo combattuto fino allo stremo, rivolgendo appelli su appelli, forse con l'illusione dell'illuminismo, che alla ragione potesse alla fine prevalere. Questa storia è durata per due anni siamo riusciti, ogni tanto emergeva qualche disponibilità anche nelle forze di governo, ci sono stati dei pourparlers, dei segni di apertura, e noi speriamo che fino all'ultimo prevalga, tant'è vero che a quanto so la discussione finale si ritarda ancora di una settimana. Speriamo che in questi giorni qualcuno voglia far prevalere la razionalità, almeno il confronto, non una decisione affrettata, ma una decisione meditata, realmente confrontata con le reazioni, con i bisogni e le esigenze della magistratura.